possiamo accomodarci qui a Mottola, a casa. Quando c'era la pandemia e io, grazie Giuseppe, e io seguivo in streaming il messaggio, poi ci alzavamo durante la lode. Cioè mia figlia era già pronta con la chitarra, il microfono, la gonna brillante, perché in chiesa ci si veste eleganti. Non che gliel'abbia insegnato io, però lei si vuole vestire elegante. Sapete, abbiamo già visto il punto numero 2 di questo messaggio, quindi siamo andati avanti già. E voglio subito immergermi insieme con voi nella lettura degli Atti. E stiamo per leggere Atti capitolo 19. E ritroviamo Paolo alle prese col suo terzo viaggio missionario. Aveva avuto un primo viaggio, un secondo, ora si era imbarcato nel suo terzo e intorno al 54 d.C. lo ritroviamo nella città di Efeso. E sapete, mentre leggevo questa parte di Atti degli Apostoli, ho scoperto che durante il suo soggiorno ad Efeso l'Apostolo Paolo ha scritto la prima lettera ai Corinzi, che noi abbiamo letto durante il nostro percorso di lettura di quest'anno. E sono andato poi subito a leggere 1 Corinzi dopo che ho letto questa parte e ho trovato tante parallelismi e tante cose che poi vedremo insieme. Però iniziamo subito a leggere. Ci siete? Siete con me? Volete subito andare in questa avventura? Io mi sono immaginato l'Apostolo Paolo che stava ad Efeso e che scriveva ai Corinzi, che aveva visto nel suo secondo viaggio missionario. Quindi, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse ad Efeso. E vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Importante questa domanda. Una domanda importante da fare a noi stessi. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo quando abbiamo creduto? Perché da lì dipendono tante cose, amici miei, fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle fa un po' arcaico, però è biblico, pastore. Gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Pensate, non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro: con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero: con il battesimo di Giovanni. E Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro. Ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Ecco perché noi domenica prossima avremo i battesimi. Ecco perché noi celebriamo i battesimi nel nome di Cristo Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché se non abbiamo ancora ricevuto lo Spirito Santo, siamo dei simpatizzanti. Se non hai ancora posto questa domanda a te stesso, sei un simpatizzante. E Paolo sapeva che ad Efeso Dio stava chiamando non delle persone che gli piaceva ascoltare qualche storiella di Gesù e che non avevano ricevuto quella potenza dello Spirito Santo, ma Paolo sapeva che Dio si stava chiamando un popolo che fosse potente, un popolo che fosse discepolo di Cristo nel vivere quella chiamata. Ed è per questo che noi viviamo tutto quello che viviamo. Posso dirlo a modo mio, oggi sarà un po' libera questo incontro, è come se ci siamo seduti a casa, io vi ho invitato e ci stiamo prendendo un caffè, vi piace? Già la lode la vivremo poi dopo, perché ci siamo lasciati un pezzo alla fine per ritornare ad avvicinarci a Dio con noi stessi, con il nostro cuore, per afferrare quello che Lui ci vuole dare questa mattina. Posso dirlo come mi viene da dire? Basta fare il simpatizzante. Basta. A Dio non serve che tu sei simpatico e che tu hai simpatia per Lui. A Dio serve che tu sei discepolo. Ed essere discepolo significa fare le scelte che Gesù ti pone davanti. Essere discepolo significa porti quella domanda che Paolo ha posto. Hai ricevuto lo Spirito Santo? Di che battesimo sei stato battezzato? Ma sei stato battezzato? Verso 8. Poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere, dicendo male della nuova via davanti alla folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tiranno. Mi piace, ho scoperto leggendo gli Atti, che all'inizio i discepoli venivano chiamati i seguaci della nuova via. C'era una nuova via. C'è una nuova via per te. Se sei simpatizzante, rimani dove stai. Se sei un discepolo, abbracci la nuova via. Non vai più nella strada che andavi ieri. Da oggi vai in una strada nuova. E questo è quello che Gesù ci chiede. Questo durò per 2 anni, così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Ascoltate ora, Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, a tal punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Non è fantastico? Come se io mo, dopo la predica, mi tolgo la maglietta un po' appezzata di sudore, quindi ancora più unta, ve la lancio così e venite guariti, perché vi cade il mio sudore addosso. Scherzo, però questo è quello che succedeva veramente. Non lancerò la mia maglietta, però sarebbe bello se la nostra fame di Dio ci portasse a vivere quello che loro hanno vissuto. E non perché il pezzo di stoffa che era stato addosso a Paolo era un cimelio santo che provocava salvezza, era la potenza di Dio che risiedeva nel gruppo di persone che lo ricercavano, che operava potenti miracoli, pure attraverso i vestiti. Ora, sentite adesso, alcuni esorcisti itineranti giudei. Ora, chi erano gli esorcisti? Gli esorcisti, da dizionario, sono quelle persone che scacciano i demoni mediante pratiche e formule magiche. Ma questi esorcisti itineranti tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni. E loro dicevano, io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia. Quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, ebreo e caposacerdote, ma lo spirito maligno rispose loro, conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Come si dice in una colonia francese che abita qui nella zona barese, a Ciappartin. A Ciappartin. Non è che se noi ci riempiamo la bocca a scimmiottare Gesù di qualcun altro, questo funziona. A Ciappartin. A chi appartieni tu? Io conosco Gesù. Conosco Paolo, ma voi chi siete? O come dicono alcuni, chi vi ha staccato? Da dove arrivate? E sentite che cosa gli accade. E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su 2 di loro. Scusate, non devo ridere. E li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Questo fatto fu risaputo da tutti, i pettegoli, no, di Efeso, subito. Lo sai che è successo ai figli di Sceva? Quelli volevano fare abracadabra e hanno preso mazzate. Ma... E tutti furono presi da timore e il nome del Signore Gesù era esaltato. E molti di quelli che avevano creduto, sentite ora, venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. E fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti. Quando la potenza di Dio scende, lo Spirito Santo ci convince. Non perché io ti posso dire qualcosa, ma perché lo Spirito Santo che abita in te ti convince di peccato e ti dice, Antonio, devi confessare questa cosa, perché ti devi liberare di questa cosa. Antonio, devi riconoscere questa cosa, perché Gesù ti vuole guarire di questa cosa. E questi maghi, che sicuramente era il loro lavoro fare queste arti, hanno bruciato tutti i loro libri per un valore di 50.000 dramme d'argento. Stavano bruciando il loro stipendio, la loro vita, il loro lavoro, semplicemente perché la potenza dello Spirito Santo era scesa su di loro e li aveva convinti. Che cosa devi bruciare tu? Verso 20. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Così la parola di Dio scendeva e si affermava potentemente. Se quel gruppo di 12 persone di Efeso fossero rimasti dei simpatizzanti e non si fossero posti la domanda: ma questo Spirito Santo è sceso sopra di noi? Ce lo abbiamo, sì o no? Questa parola di Dio non sarebbe potuta crescere e non avrebbe avuto potenza di operare i miracoli che ha operato. Il titolo del messaggio di oggi è La potenza della parola. E noi ogni giorno abbiamo modo di sperimentare la potenza di questa parola leggendola nel piano che con il pastore stiamo facendo. E io credo che questa sia una cosa geniale. Io credo che non gliel'ha detto lui dalla sua sapienza, ma è lo Spirito Santo che gliel'ha detto. Perché se noi tutti insieme, ogni giorno, facciamo scendere quella parola che leggiamo nel nostro cuore come rivelazione, noi riceviamo quella potenza dello Spirito Santo per andare al lavoro e fare quello che Dio ci chiede, per tornare a casa e fare quello che Dio ci chiede, per andare davanti al diavolo e sconfiggerlo nel modo in cui Dio ce lo chiede e Dio ce lo dice e lui ce lo suggerisce. E sapete, è curioso vedere come l'Apostolo Paolo, mentre accadeva tutto questo, immaginate, scrive a Corinto, scrive alla Chiesa in Corinto, e secondo me queste esperienze un po' ravvivano in lui il ricordo di quello che aveva vissuto a Corinto. E nel capitolo 2 lui dice questo: e io, fratelli, per incoraggiare la Chiesa in Corinto, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Cristo Gesù e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore, con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Sulla potenza di Dio. La tua fede deve essere fondata non per delle parole che io posso dire, o che il pastore può dire, o che qualsiasi persona che tu vedi come un riferimento può dirti. La tua vita deve essere fondata sullo Spirito e sulla potenza che proviene dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. E lui continua, e nel capitolo 1 sempre di Corinzi aveva già detto: perché la predicazione, dal verso 18, la predicazione della croce è pazzia. È pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Era pazzo gettare un pezzo di stoffa addosso alle persone e vederle guarite. Era pazzo, se tu sei un mago e questo è il tuo lavoro, bruciare tutti i tuoi libri ed essere disoccupato il giorno dopo senza neanche prendere la disoccupazione. È da pazzi. Eppure è la potenza di Dio per chi crede in Lui. Poiché il mondo non ha conosciuto, verso 21, Dio mediante la propria sapienza, a Dio è piaciuto, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Se noi ci vogliamo impegnare a capire e a conoscere Dio con le rotelle del nostro cervello che sono arrugginite, noi non lo conosceremo mai. Puoi fare tutti i corsi, puoi fare tutti gli studi, puoi, non lo so che cosa puoi fare, tutta la scienza profusa te la puoi far arrivare. ma a Dio è piaciuto, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Anche loro non comprendevano come mai Gesù li avesse scelti. Non ci sono fra di voi molti sapienti secondo la carne. E qui glielo dice in maniera gentile, cioè siete un po' cretinetti. Riconoscetelo, no? Che mo volete fare quelli che devono conoscere Dio con l'intelligenza. Né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Se non bastasse, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Se ti senti niente, sei la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto. Se ti senti inadeguato, sei la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto, perché sei quella che Gesù vuole. E sai perché? Perché io e te ci dobbiamo sempre, fino a quando avremo respiro, ricordare che la nostra vita, se è buona, se è valida, se è degna, non è perché noi siamo capaci, ma perché Gesù ci rende degni di andare alla presenza di Dio. E ce lo dobbiamo ricordare. E questa deve essere la nostra forza. Tant'è vero che lui nel capitolo 2 lo dice: io sono venuto con le mie debolezze a voi. Come posso attivare la potenza della parola di Dio nella mia vita? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre questa mattina. Come posso attivare la potenza della parola di Dio nella mia vita? Punto numero 1. Ci siete? Saremo velocissimi perché poi la dobbiamo attivare questa potenza. Quindi io vi do delle indicazioni e poi dovete operare voi. Quando la parola di Dio è un fuoco nelle mie ossa. Quando la parola di Dio è un fuoco nelle mie ossa, quando noi ci lasciamo consumare dalla parola di Dio, è lì che possiamo attivare la potenza che risiede in quella parola. Sapete, per consumare le ossa, ho fatto una ricerca, dobbiamo raggiungere circa 1000 gradi centigradi, altrimenti le ossa non si consumano. Ecco perché ritroviamo ossa di migliaia e milioni di anni fa, perché o le metti a più di 1000 gradi centigradi o le ossa non si consumano. A quanti gradi stai tu? Se vuoi attivare la potenza della parola di Dio nella tua vita, devi aumentare quei gradi. Devi aumentare quei gradi. E quella parola ti deve consumare. Non deve rimanere niente. Sapete, Gesù lo ha detto in altri termini e lo leggiamo nel Vangelo di Marco. Ad un certo punto lui ha detto: chiunque vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. E dà una spiegazione, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. Che giova, infatti, all'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua? Che cosa potrà dare l'uomo in cambio della sua anima? Il messaggio della croce è pazzia, sapete perché? Perché il messaggio della croce ci parla di morte, di resurrezione e di nuova vita. Il messaggio della croce non è che devi diventare una persona migliore. Lo so che è forte quello che sto dicendo. Se vuoi diventare una persona migliore, ci sono tantissimi corsi. Un corso di counseling ti aiuta a comprendere meglio te stesso e gli altri. I gruppi di mutuo aiuto, dove ci sediamo in cerchio, ci raccontiamo le nostre debolezze, ci incoraggiamo l'uno con l'altro, ci diamo una pacca e ci aiutiamo a migliorare noi stessi. Tante religioni parlano di questo, ma non è il messaggio della croce. La teoria della reincarnazione dice che se tu in questa vita ti comporti bene, nella prossima ti reincarnerai in una persona migliore. Quindi se oggi sei povero, però sei bravissimo, poi quando morirai ti reincarnerai in un'altra persona e sarai più ricco. Tante sette, gruppi spirituali, di cui le star di Hollywood fanno parte, perché vengono abbindolate da queste false verità, parlano di questo. E dicono, no, noi ci sediamo, ci diciamo le cose e tu poi dopo sarai una persona migliore. Il messaggio della croce non ti può rendere una persona migliore. Il messaggio della croce ti può fare morire a te stesso, rinunciare a te stesso e risorgere a nuova vita. C'è una nuova via. C'è una via che non è quella che stavi facendo prima con delle scarpe senza i buchi. Non ti vuole cambiare le scarpe, Gesù. Gesù ti vuole far risorgere. Gesù ci vuole far risorgere. Gesù vuole che io abbia una nuova vita. Per questo è pazzia. Io non lo so come lo stiamo vivendo, però questa è una rivelazione che deve scendere nel nostro cuore. Secondo punto. Come posso attivare la potenza della parola di Dio nella mia vita? Quando la parola di Dio, l'abbiamo visto durante il brano, è un sussurro alla mia anima. Quando la parola di Dio è un sussurro alla mia anima, deve essere un fuoco nelle mie ossa che mi deve consumare e deve essere un sussurro nella mia anima. E io prego la regia di mandare un'immagine. Sapete, la maggior parte della mia vita io mi sono sentito così, con un bel sorriso. Solo io mi sono sentito così? O è una questione un po' comune? E quando mi sentivo così, ho detto, Signore, ma tu, io sono così, devi scegliere a me. Stanno tante emoticon più belle, più capaci, più brave, più sante. E tu vuoi a me. È in quel momento, quando tu ti senti così, che la parola di Dio deve sussurrare alla tua anima una verità, che non è quello, è un'altra cosa. È un'altra cosa. Chi scegli che possa sussurrare alla tua anima? Ogni giorno possiamo leggere un capitolo della Bibbia e possiamo scegliere che quel capitolo sussurri alla nostra anima. E possiamo scegliere a quelle parole, a questa parola, che non è quello che io credo, che non è quello che tu credi, che non è quello che io penso, che non è quello che tu pensi, che non è il consiglio che uno ti può dare, che non è questo. Quello è il gruppo di mutuo aiuto. Poi c'è il sostegno dei fratelli, c'è l'incoraggiamento che abbiamo l'uno verso l'altro, ma se non è fondato su questa parola che ci sussurra nella nostra anima, di che stiamo parlando? Dove stiamo andando? Che cosa stiamo facendo? Permetti alla parola di Dio di sussurrare alla tua anima la sua verità. La sua verità. Perché anche se ti senti così, c'è un ma. Ed è il ma che Gesù ha scelto te. Perché tu ti devi ricordare che non sei bravo da solo, che non ce la fai da solo, che non vai da nessuna parte. Se non c'è Lui che ti sussurra e che porta vita. Invito la band sul palco. Punto numero 3. Come posso attivare la potenza della parola di Dio nella mia vita, quando la parola di Dio è la mia rivelazione. Quando la parola di Dio diventa la mia rivelazione. Fino a quando il tuo percorso di fede rimarrà guardare la storia degli altri, non andrai mai da nessuna parte. E questo è il rischio che possiamo correre, soprattutto ora, ancora di più, perché abbiamo le mascherine, perché c'è la pandemia, perché non ci possiamo parlare, non ci possiamo salutare, e quindi veniamo, simpatizziamo e usciamo. E chi si è visto e si è visto? Nessuno ci ha visto, nessuno lo sa, nessuno lo vede, e forse è sempre la storia di qualcun altro quella che noi vediamo. E magari mi vedi che io ti sto predicando e pensi che chissà che storia fantastica, meravigliosa io abbia, e dici, bah, forse un domani io l'avrò come a lui. Invece non è così, perché io sono, lasciatemi il termine, quella cacchina. Forse più di te mi sento con la cacchina, e tu neanche lo sai. Ma io ho scelto che quella parola, e questo forse tra tutte le cose brutte e sbagliate che io sono, una cosa buona c'è. E prima lo stavo cantando, e mi sono messo a piangere come uno scemo. Per adorarti è la ragione per cui io vivo. E io lo faccio sempre. Mi sento una cacca, è là che lo devo dire. È là che lo devo dire, perché è là che quella verità deve trasformare. È là che non ho più i dubbi. Non ho più i dubbi di perché lui mi ha scelto. E molto intimamente, tanto stiamo prendendoci un caffè, mentre stavo adorando stamattina, ho detto, Signore, io lo so perché tu mi hai scelto. È bugia che non lo comprendo più. Per troppo tempo non l'ho compreso, mo basta, io lo so. Perché ti amo, perché alla fine io ti amo. E tu lo sai che io ti amo. Ed è per questo che tu mi hai scelto. E io lo comprendo. Non è la mia rivelazione che ti serve per attivare la potenza della parola di Dio nella tua vita. Non è la mia rivelazione. È la tua rivelazione della sua parola nella tua vita che attiva la sua potenza. È la tua rivelazione della sua parola nella tua vita che attiva la sua potenza. E questo non avviene dal giorno alla notte. Questo non avviene con uno schiocco di dita. Questo avviene vivendo e ricercando la sua parola. Sai, il mondo che ti circonda ha bisogno di quella dimostrazione di spirito e di potenza attraverso la tua rivelazione della sua parola. La città di Efeso aveva bisogno quegli esorcisti che simpaticamente ho deriso avevano bisogno di una dimostrazione di potenza, di una rivelazione della sua parola attraverso la vita di quei 12 discepoli che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Chi lo sa se dopo loro si sono resi a Gesù? Non è scritto. Quei maghi che hanno bruciato quei libri avevano bisogno di una dimostrazione di spirito e di potenza da parte dei discepoli, di una rivelazione della potenza della sua parola nella loro vita per bruciare quei libri. Chi nella tua vita ha bisogno di quella dimostrazione di spirito e di potenza della rivelazione della sua parola nella tua vita, che attiva quella potenza, che ti fa perdonare chi devi perdonare e trasforma la tua relazione con quella persona? Questa è dimostrazione di spirito e di potenza. Non andare subito a pensare al fazzoletto che dobbiamo buttare, c'è anche quello. Ma partiamo da quello che ti costa a te. Partiamo da quello che ti deve consumare le ossa prima. Partiamo da quello che ti deve sussurrare all'anima prima. E poi arriviamo a tutto il resto. E tante volte noi vogliamo tutto il resto e non vogliamo pagare il prezzo di morire. E pensiamo che essere migliori sia la soluzione che Gesù ci ha dato. E la soluzione che lui ci dà è morire a noi stessi e avere una nuova vita. Così la parola di Dio crescerà e si affermerà potentemente. E noi scriveremo una lettera al pastore quando andrà da qualche parte e gli diremo: pastore, così la nostra chiesa sta crescendo e la parola di Dio cresce e si afferma la potenza dello Spirito Santo, perché noi stiamo ricercando ognuno la propria rivelazione. E vogliamo prenderci questo tempo e vogliamo confessare le parole del canto. Ci possiamo alzare in piedi, sia qui, sia a casa, sia a Mottola. Saluto gli uomini forti e valorosi che erano con noi a ritiro. Vi voglio bene. Gedeone, sei forte. Prendiamo questo tempo davanti a noi. Prendiamo questo tempo davanti a noi per iniziare a ricercare quella rivelazione, la tua rivelazione. È diversa da me, è diversa da chi è accanto a te, è quello che Gesù ha preparato per te. È quella verità che è la tua verità. È quella verità che sconfigge quella cacchina, che è una bugia. Sì, lo vogliamo fare? Viviamo questo momento davanti a Lui.